Libia, Haftar deve riflettere su tregua, Conte vola al Cairo, Iran, esclusiva qui a nessun luogo, la voce di un giornalista della TV di Stato Press TV e poi Lesbo, emergenza migranti. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. While Sarraj signed on the dotted line, Commander Khalifa Haftar, the Eastern strongman, left Moscow without signing. Female Olympic medalist Kenia Alizadeh has announced her defection in a series of posts on social media. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano, il vostro osservatorio su tutto ciò che accade al di fuori dei confini italiani. La squadra, Antonio Talia, Ilaria Sesana, Giulia Canizzaro, Valentina Ternullo e Roberta Fisani, che è tornata in console. Intanto vi segnalo che al 349-238-6666, neanche il tempo di finire i titoli di testa, è già arrivato il primo WhatsApp. E allora mi dà il destro per ricordarvi i numeri, appunto, 349-238-6666, per commentare o porre domande sui tre grandi temi che tratteremo quest'oggi. Poi c'è Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Infine Twitter, se amate questo social potete cinguettare, l'indirizzo è Nessun Luogo 24 oppure il mio account personale che è Giampaz. Ma come ogni giorno, la prima cosa che facciamo è misurare la temperatura. Le notizie del nostro termometro internazionale, lo ricordo, o sono temi e dossier che noi seguiamo da tempo qui a Nessun Luogo Lontano, oppure sono fatti che stanno per diventare notizie e allora a quel punto diventeranno approfondimenti e puntate qui a Nessun Luogo è Lontano. La prima notizia arriva da Giuba, Sud Sudan, o meglio dovrei dire da Roma, perché voi sapete della lunga guerra civile che accade nel più giovane stato africano, anzi è il più giovane stato globo. Ebbene, dopo una lunga guerra civile che ha fatto migliaia di morti e centinaia di migliaia di sfollati, vi sarebbe la cessazione delle ostilità a partire da domani, mercoledì 15 gennaio. Chi si è fatto alfiere di questa nuova trattativa? Ebbè, la comunità di Sant'Egidio, tant'è che a Roma si sta firmando una dichiarazione, che appunto verrà chiamata Dichiarazione di Roma, sul processo di pace. È stato sottoscritto ieri nella capitale, dovrà avere i suoi sviluppi, dovrà avere il suo seguito. In buona sostanza, il tutto è nato da un appello, ma anche un gesto molto eclatante di Papa Francesco, lo ricorderete, lo scorso 11 aprile. A conclusione di un incontro con i leader sud-sudanesi si era chinato a baciare i piedi al presidente Salva Kiir e al leader dell'opposizione Riek Machar per chiedere l'impegno per la pace. Ci è voluto qualche mese, è ancora presto per vedere se la dichiarazione di Roma darà i suoi frutti, ma siamo qua anche per verificare questi aspetti. Nella puntata di ieri vi abbiamo dato conto di quell'incontro a Pau, sud della Francia, del cosiddetto G5. Sono i 5 paesi africani impegnati nella lotta alle tante bande jihadiste che stanno mettendo a ferro e fuoco non soltanto il Mali, ma anche Burkina Faso, Chad, Niger e Mauritania. Ricordate di quella convocazione dettata dal presidente Macron, che a molti leader africani è suonata appunto irrituale e irrispettosa verso omologhi capi di Stato africani. Ebbene, la conclusione c'è stata e si è ribadito tutte le parti, quindi le 6 nazioni, G5 più Francia, l'impegno a fronteggiare i gruppi jihadisti insieme e aumentare la presenza militare nella zona. Ricordo l'operazione Barkhane francese, che dà supporto ma anche è impegnata in prima linea, conta 4.500 uomini oltre a un serio dispiegamento di mezzi, basi fisse e avamposti militari in tutto il Sahel. Un'operazione Barkhane che ha subito nelle scorse settimane una ferita durissima, perché erano decenni che l'esercito francese non subiva 13 perdite, 13 vite umane appunto in un teatro di guerra. Non a caso il vertice era stato indetto a Pau, perché 7 dei 13 militari morti erano elicotteristi proprio della compagnia di stanza nel sud della Francia. Questo è il nostro termometro internazionale, caldo ma non caldissimo, mentre caldissime sono le notizie che arrivano anche quest'oggi dall'Iran e lì vi porto. Roberta Fisani, facciamo quasi una correzione, perché ho detto andiamo a Teheran, io vi proporrei invece di togliervi le scarpette e i calzini e in punta di piedi salire su un tatami. Salire su un tatami per andare a assistere un incontro di Taekwondo. In realtà dobbiamo risalire al marzo dello scorso anno. Kimia Alizadeh, iraniana, Nima Gurung, nepalese, vince l'atleta iraniana, l'unica atleta iraniana medagliata alle Olimpiadi. Atleta di Taekwondo, categoria 57 kg, atleta piuttosto alta, molto veloce coi calci. Ovviamente chi conosce questa arte marziale sudcoreana conosce bene anche appunto l'importanza, no, degli arti inferiori nello sferrare i colpi. Il colpo però, se volete, più forte l'ha inferto via Telegram, annunciando che non sarebbe tornata in patria. Ha chiesto asilo, pare, nei Paesi Bassi, e ha affidato ai social il suo stigma verso il regime iraniano, dicendo che non ne poteva più di seguire certe regole, di vestirsi come gli era imposto e di non poter godere dei propri diritti. In buona sostanza ha denunciato l'ipocrisia del regime iraniano. Secondo parecchie fonti l'atleta sarebbe fuggita nei Paesi Bassi, ma non vi è conferma, assieme col fidanzato. Non è l'unico caso, questo è eclatante, evidentemente attinge al mondo dello sport, di critica, di defezione, di tentativi di lanciare strali verso Teheran. Lo ricordiamo, dopo l'uccisione di Soleimani, quell'abbattimento dell'aereo negato per 3 giorni e poi l'ammissione che è arrivata da Teheran. Nelle ultime ore sono arrivate le notizie degli arresti, non si sa ancora quanti, dei presunti responsabili di quell'abbattimento, segno che Teheran vuole in qualche modo rimediare. Ricordate, dicevamo nei giorni scorsi, come il Canada, per bocca di Justin Trudeau, volesse giustizia. E insomma, una situazione che per molti analisti è un turning point, direbbero gli analisti inglesi, è un punto di svolta, forse di non ritorno. Alla società civile iraniana, che già nei mesi scorsi era scesa in piazza contro il carovita e contro l'isolamento economico e il regime, da 600 a 1500 morti secondo varie fonti, 1500 secondo l'agenzia di stampa Reuters. Poi in qualche modo la società, dicevo, si è riunita attorno al feretro di Soleimani, e adesso però, con quell'incredibile autogol da parte di Teheran, il malcontento si è nuovamente diffuso. Proprio ieri vi davamo notizia di come le università, soprattutto a Teheran, sono state fulcro di proteste, e adesso, ancora più eclatante, sembra che il mondo della cultura, ma anche del giornalismo, si sia in qualche modo accodato a questa serie di defezioni, o mettiamola così, voci critiche verso Teheran. Sono infatti famose almeno uno o due giornalisti televisivi, mezzi busti, che hanno denunciato il fatto di aver raccontato menzogne per oltre 13 anni. L'hanno fatto in diretta. Abbiamo cercato di capirne qualcosa di più. Che cosa vuol dire fare il giornalista in Iran? Che cosa vuol dire lavorare per la TV di Stato? Che libertà di espressione o di critica si può avere? Ilaria Sesana ha raggiunto Gambar Naderi, giornalista di Press TV. Il canale, notate bene, è di proprietà della IRIB, l'Islamic Republic of Iran Broadcasting, cioè la compagnia di Stato che sostanzialmente controlla tutti i media. Al giornalista Anaderi abbiamo chiesto se ci può dare innanzitutto qualche informazione su quello che sta accadendo in queste ore, in questi giorni, dopo l'abbattimento dell'aereo, e lo sentiamo. Sappiamo che l'Islamic Revolutionary Guards Corps si è assunta la piena responsabilità per questa tragica perdita di vite umane. Per quanto riguarda l'abbattimento per errore dell'aereo ucraino da parte di un missile iraniano, i leader del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ieri hanno tenuto una conferenza stampa in cui hanno chiesto scusa. Si sono assunti la piena responsabilità per quanto è successo e hanno assicurato che i familiari delle vittime verranno adeguatamente compensati per le loro perdite. Si sono scusati anche con i paesi stranieri per questa tragedia, per questo terribile incidente. Al tempo stesso hanno promesso che un incidente del genere non si ripeterà in futuro. Il problema è che ci sono molte persone qui in Iran che non credono alla narrativa ufficiale. Pensano che 3 giorni siano troppi per conoscere la verità e che le autorità avrebbero dovuto dire immediatamente che l'aereo era stato abbattuto da un missile a causa di un errore umano. Le persone stanno accusando il governo e altre diverse autorità, comprese le autorità del traffico aereo e ovviamente le guardie rivoluzionarie, per aver cercato di coprire questa vicenda. Ma i guardiani della rivoluzione hanno reso assolutamente chiaro il fatto che tragedie simili non si ripeteranno. La voce di Gambar Naderi, giornalista di Press TV, ha accettato di parlare con noi, di raccontarci un po' le reazioni da parte della società iraniana e come i media l'hanno raccontata dopo l'abbattimento del Boeing ucraino, ma anche altri temi, anche se volete un po' più sensibili. Adesso andiamo un po' nel merito della discussione col giornalista Naderi. 349-238-6666 invece il numero per voi, per commentare e fare domande. C'è un ascoltatore, innanzitutto, vabbè, torna alla questione Libia, la cito adesso, poi ci torniamo, apriamo il capitolo libico. Haftar non firma l'accordo, a pensare male si fa peccato, ma non è che il suo amico russo che lo sostiene faccia comodo così ancora un po' per avanzare ulteriori richieste oltre a vendere armi, così per Paolo, e sono assolutamente d'accordo, da più fonti si è detto Haftar si è preso 48 ore per intanto avanzare, vi darò dopo le ultimissime che arrivano dal fronte libico. Pierpaolo, e per poi concludere il ragionamento, evidentemente alla conferenza di Berlino confermata per il 19 gennaio andare a mettere sul piatto qualcosa di più pesante. Immaginate una trattativa, un dialogo per la pace in cui uno dei contendenti ha le porte di Tripoli e, come dire, ha il cannone puntato. Beh, insomma, acquisisce un peso politico evidentemente diverso. E poi Pierpaolo aggiunge, ho paura di giustizia sommaria per quel povero militare iraniano che ha fatto partire il missile, sembra che non abbia avuto autorizzazioni dall'alto. Allora io, con le mie limitate conoscenze delle cose militari, voglio sottolineare una cosa, ma non per giustificare assolutamente alcuna parte, ma ne parlavamo prima anche con alcuni colleghi qua in redazione. Voi dovete immaginare le pressioni che vi potevano essere durante quella notte e immaginate anche che difficoltà nel pensare a una dichiarazione ufficiale per un sistema di potere, quello iraniano, che ci ha ben spiegato Raffaele Mauriello, che insegna proprio alla Università Tebatabai, nostro ospite di ieri a Teheran, quelle sfere, quelle enormi sfere che a volte non comunicano così velocemente. Ecco, dobbiamo forse utilizzare una lente diversa per capire non solo il sistema di potere iraniano, ma anche le decisioni che vengono prese. Immaginate e pensate solamente al fatto dell'esistenza dei Pasdaran, i guardiani della rivoluzione che dipendono da Khamenei, pensate a Soleimani che dipendeva da Khamenei, però a fianco c'è il presidente Rouhani. Insomma, utilizzare la lente occidentale, pensare alle nostre democrazie per interpretare l'Iran sicuramente può essere fuorviante. Come sicuramente ha, come dire, fatto uscire dai binari questo evento, sicuramente tragico, tanti iraniani presenti a bordo, una cosa è certa ed è, ve ne potete convincere andando a guardare quei pochi tweet che escono da Teheran dalle proteste. Questo evento ha minato la credibilità del governo. Abbiamo chiesto per questo a Gambar Naderi, lo ricordo, giornalista di Press TV, sostanzialmente una TV di Stato iraniana, se appunto il governo di Teheran abbia ancora credibilità dopo questo abbattimento. Sentite. Un paio d'ore prima dell'abbattimento dell'aereo, le forze iraniane avevano colpito due basi americane in Iraq. È stato un momento di gioia per molte persone, una ritorsione per l'assassinio del generale Soleimani tre giorni prima. Purtroppo questa è stata un'occasione persa perché, poche ore dopo, l'abbattimento per errore dell'aereo ucraino ha completamente cambiato l'umore della popolazione. Le persone sono profondamente deluse. Gli studenti, in modo particolare, sono molto arrabbiati. Pensano che il governo abbia mentito, che le gerarchie abbiano mentito. Scandiscono slogan contro l'establishment. Ma da quanto ho potuto vedere, si tratta di 4-5 mila studenti che non rappresentano l'intero paese e che non rappresentano nemmeno la comunità accademica. In questo paese ci sono oltre 20 milioni di studenti, mentre quelli che sono scesi in piazza sono tra i 4 e i 5 mila. Comunque non dovremmo lasciar cadere questa vicenda e non dovremmo ignorare le loro preoccupazioni. Vogliono giustizia, vogliono che le autorità si assumano la responsabilità di quello che è successo e vogliono che i responsabili di questo tragico, tragico incidente vengano portati davanti alla giustizia e chiamati a risponderne. È questo che vogliono. Ma come ho detto, la situazione è molto complicata. Fino a ieri il governo non aveva idea di quello che stava succedendo. Oggi il presidente iraniano ha detto che dietro questo incidente ci sono più persone. Una dichiarazione che contraddice quella dei guardiani della rivoluzione che accusavano invece una sola persona. E invece oggi il presidente ha detto che sono coinvolte più persone e che tutte saranno chiamate a risponderne e portate davanti alla giustizia. La voce di Gambar Naderi, giornalista di Press TV, televisione legata allo Stato, come è facile immaginare parlando di Iran, che però ci fornisce uno sguardo dall'interno. E devo dire, anche con mio stupore, e lo sentirete dalle risposte che ha dato a Ilaria Sesana, non si è censurato più di tanto. Allora, le letture possono essere doppie, è normale che un regime lasci un spiraglio di dissidenza per dare un'idea di normalità, oppure potremmo ipotizzare che realmente ci sono degli spiragli. L'Iran è davvero complesso e lo stiamo capendo in queste puntate in Nessun Luogo, in cui cerchiamo di approfondire questo paese e il popolo persiano. Non è facile, lo ripeto ancora una volta, la parola d'ordine è complessità. Sembra farmi eco Salvatore da Milano. Salvatore di Milano, chiedo scusa all'ascoltatore, che ha scritto al 349-238-6666. Gli iraniani ci hanno messo 3 giorni per dire la verità, noi sono 40 anni che aspettiamo di sapere se siano stati i francesi o gli americani a battere il 19 di Ustica. Gli fa eco un altro ascoltatore, stavolta via WhatsApp, che dice: dico solo una parola, Ustica. Un altro ascoltatore: è una sincera operazione di trasparenza o il regime cerca solo di compartimentare le perdite separando le colpe dei Pasdaran dagli altri circoli di potere? E qua mi rifaccio davvero alla lettura, pur non potendo dare una risposta perché non è mia competenza, che dava ancora una volta Raffaele Mauriello proprio ieri, quando diceva: immaginate il sistema di potere iraniano come una serie di sfere. Ecco, le sfere a volte si intersecano, si incrociano, si accavallano. Per questo dicevo, gli occhiali da occidentale non ci aiutano a comprendere la situazione. Un ascoltatore mi stigmatizza dicendo: non fareste analisi tanto complesse se il missile fosse stato americano. Probabilmente no, ma proprio per la complessità del paese. Il nostro modo di vedere, di leggere la nostra democrazia è molto più simile a quella americana che al sistema politico iraniano. Semplicemente la barriera linguistica, sfido tra voi ascoltatori, fatemi sapere chi di voi parla il farsi e chi di voi parla inglese, chi di voi capisce Donald Trump, chi di voi capisce Rouhani quando parla alla televisione. E la grande politica internazionale è fatta anche di sfumature. Torniamo però al giornalismo, non per una questione di autoreferenzialità, per carità, però è evidente che di fronte a un regime apparentemente monolitico come quello iraniano, i media potrebbero svolgere un ruolo di un certo tipo, a seconda dell'apertura o meno del regime. Vi faccio sentire ancora Gambar Naderi, giornalista di Press TV, a cui abbiamo chiesto, dopo la notizia delle due giornaliste televisive che hanno abbandonato quasi con spregio la vecchia carriera dicendo: vi ho mentito per 13 anni, come si sente lui, giornalista che è ancora in casa? Sentite. Well, it's not just the journalists. We know that some filmmakers, actors, actresses, athletes. Non riguarda solo i giornalisti. Sappiamo che anche registi, attori, attrici, atleti hanno dichiarato che non parteciperanno ai prossimi eventi internazionali. Non vogliono più lavorare con il governo o nella televisione pubblica o partecipare ai festival cinematografici per mostrare la propria solidarietà con i manifestanti per le strade e ovviamente con le famiglie delle vittime di questa terribile tragedia. Questo è comprensibile. Le persone sono arrabbiate, gli artisti sono arrabbiati, anche i giornalisti non sono contenti di lavorare qui. C'è stata una perdita di credibilità e il governo in questi giorni deve gestire una situazione molto complessa per ripristinare la fiducia dell'opinione pubblica e sarà molto difficile. Se vi siete sintonizzati solo adesso, in esclusiva Nessun Luogo Lontano, la voce di Gambar Naderi, giornalista di Press TV, TV di Stato iraniana, che ci sta raccontando da dentro quella che può essere la narrativa stessa di una TV legata al regime. 349-238-6666 invece il vostro canale, il vostro modo per far sentire la vostra voce, porre domande e commentare. Più di un messaggio ribadisce per usare un eufemismo, la stranezza del fatto che non fosse stato chiuso lo spazio aereo, e questo credo sia davvero una colpa assolutamente imperdonabile. Mettiamoci nei panni, no, di chi dirige quella pioggia di missili verso l'Iraq. Ma come? Tu non chiudi l'aeroporto? Capisco anche che poi se quel lancio di missili doveva, come dire, almeno essere preparato e poi partire in gran segreto, forse chiudere lo spazio aereo nelle ore immediatamente precedenti e successive poteva essere un problema, ma a distanza di 4 ore forse poteva essere più utile ed efficace prevedere anche quella soluzione. Sempre 349-238-6666, vi prego, dire che non bisogna giudicare ciò che succede in Iran con occhiali occidentali apre la porta a giustificazioni, non sarà il vostro caso, ma il punto resta così, Ugo. Il punto non è cercare giustificazioni, io credo, ma condivido con molti di voi, ne sono sicuro, lo sforzo di comprendere, perché soltanto comprendendo anche una realtà così diversa come quella iraniana, tantissime volte sui social si legge di confusione incredibile, vengono gli iraniani, vengono equiparati agli arabi, o addirittura si dice gli iraniani sono arabi, no? Cultura totalmente diversa, sono persiani. Ancora una volta, bisogna cercare di conoscere le cose, entrare nella complessità, e lo sforzo che cerchiamo di fare ogni giorno qui con la squadra di Nessun Luogo è lontano, ma che non significa, attenzione, giudicare o prendere posizione o prendere parte. Quando lo faccio cerco di essere chiarissimo nel dire questa è una mia personalissima opinione. Torniamo però al tema fondamentale, perché si è detto che la credibilità del governo di Teheran ha perso tanti, davvero troppi punti. E allora abbiamo chiesto al giornalista iraniano che cosa può fare per recuperare quel terreno perso. Sentite. È troppo presto. Penso che servirà un po' di tempo, perché la rabbia e l'indignazione sono ancora molto presenti. Servirà un po' di tempo per fare in modo che la situazione si calmi. In questo momento, anche oggi, gli studenti stanno protestando e al tempo stesso ci sono contromanifestazioni a supporto del governo. La situazione è molto complicata al momento. Servirà parecchio tempo perché la situazione si calmi. Ma se parliamo di credibilità pubblica, non credo che sarà ripristinata a breve. Questa è una nazione che non perdona, una nazione divisa. Non ti perdonano facilmente. Ci vorrà molto tempo e impegno da parte del governo e degli alti funzionari per ripristinare la fiducia e il sostegno del pubblico. La voce di Gambar Naderi, giornalista di Press TV, un incredibile sguardo da dentro, da Teheran. Intanto da Teheran arriva una breaking news delle agenzie. Appena battuta, Khamenei venerdì prossimo terrà il sermone del venerdì. Non accadeva da 8 anni, infatti piuttosto inusitato che la guida spirituale iraniana, lo ricordo, la fede sciita, si rivolga in pubblico, e questo accade nei momenti di particolare tensione del paese. Questo spiegherebbe, lo riporta la TV di Stato iraniana stessa, la presenza appunto di Khamenei. Vedremo a che sviluppi porterà e se riuscirà a riappacificare quelle tensioni che ormai sembrano, lo dicevo, arrivate a un punto forse di non ritorno. Facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire l'informazione finanziaria, poi la seconda pagina di Nessun Luogo. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Da MediaWorld, finanziamento a tasso zero su tutta la tecnologia che desideri, come iPhone 11 128 giga a soli 789 euro. MediaWorld, fatto apposta per me. Fino al 19 gennaio. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Ciao, questa è la segreteria di Paolo, al momento non è raggiungibile, si sta rilassando con i sedili Advanced Comfort di SUV Citroen C5 Aircross. Ti preghiamo di non lasciare nessun messaggio, grazie. Disconnettiti più spesso. SUV Citroën C5 Aircross. A gennaio tuo da 19.950 euro. Anche domenica. Info su citroen.it. Citroën. Al mattino il latte incontra la genuina fragranza dei biscotti Duemi. E nel pomeriggio il tè reclama. Dove sono i biscotti Duemi? Dove sono? Che buoni i biscotti Duemi. Spesso i buoni affari hanno bisogno di decisioni rapide e di informazioni utili in tempo reale. Scarica l'app di Credit Reform e puoi leggere subito e ovunque tutte le informazioni sulle aziende europee che ti interessa conoscere meglio. Credit Reform App. Semplice, rapida, conveniente. Da smartphone e tablet. Credit Reform. Primo in Europa per le informazioni commerciali. 800 42 53 25 o creditreforma.it. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Prima di voltar pagina fatemi ancora leggere un paio di messaggi e farvi sentire ancora la voce del nostro giornalista iraniano Gambar Naderi, giornalista di Press TV che Ilaria Sesana ha raggiunto pochissimo prima della diretta e che ci sta raccontando in qualche modo il polso della popolazione iraniana, ma anche le responsabilità del regime stesso e come sta cercando di riparare. Vi ho dato notizia prima della pausa, ed è una notizia eclatante, del fatto che Ali Khamenei terrà il sermone del venerdì. Non succedeva da 8 anni, segno che nella Repubblica Islamica Iraniana qualcosa si sta muovendo, e non parlo solamente delle proteste. Massimo da Verona. Non sono il solo ad avere la sensazione di due pesi, due narrative per le storie in sviluppo dall'Iran, assolutamente no, concordo con lei e ogni tanto accenniamo questo aspetto. E qua mi rilascio un altro messaggio che è arrivato al 349-238-6666 di un ascoltatore che dice: non prendiamoci in giro, paragoniamo l'uccisione di Soleimani a quella di Osama Bin Laden, ma le due cose non sono assolutamente paragonabili, perché Qassem Soleimani era un dipendente dello Stato iraniano, era un generale, era un funzionario. È una cosa totalmente diversa. Paragonare l'Iran al-Qaeda è assolutamente fuorviante. Proprio, secondo me non c'è assolutamente campo di discussione in questo senso. Vi faccio però sentire ancora una volta l'opinione di Naderi, perché lui il giorno del disastro aereo, da cronista di razza, nonostante alcune messaggi che arrivano, ma come si fa a fare il giornalista se la TV è del sistema? Beh, l'ha fatto, è andato sul luogo dell'incidente aereo. Sentite. Well, I was at the crash site the same day. Io mi trovavo sul luogo dell'incidente la mattina dello schianto. La situazione era terribile ed è stato molto difficile per me fare il mio lavoro. È stato un compito atroce raccontare l'evento. Pensavo che l'aereo fosse precipitato per un problema tecnico, un problema del motore, qualcosa del genere. Mi sono sentito molto stupido. Mi hanno mentito e questa cosa mi ha molto deluso. Le autorità sono giunte immediatamente alla conclusione che fosse stato un incidente, che l'aereo era caduto per un problema tecnico. Lo hanno detto a me e lo hanno detto a tutti gli altri giornalisti. E noi lo abbiamo detto, come giornalista il mio dovere era di raccontare quello che stava succedendo. Ho detto che l'aereo era caduto per un errore tecnico. Ma più tardi, quando ho saputo che era stato abbattuto da un missile, mi sono arrabbiato. Mi sono sentito sconvolto e indignato, proprio come molti altri qui. I giornalisti non sono contenti, non lo sono gli atleti né gli studenti. Gli hanno mentito per tutto questo tempo e non sono contenti. Ma penso che debbano anche capire che i guardiani della rivoluzione hanno chiesto scusa e si sono assunti la piena responsabilità per quello che è successo e che coloro che sono dietro questo attacco verranno processati. Credo che sia giunto il momento che la gente faccia i conti con questi fatti e che perdoni e dimentichi. Gambar Naderi, giornalista di Press TV da Teheran, ma non è che a parlare con noi occidentali e esporsi in maniera anche così chiara su alcuni aspetti si mette in pericolo? Sentite. I don't think so. This is not North Korea, you know? No, non credo. Questa non è la Corea del Nord. Il nostro è un paese democratico. Puoi parlare ai media, esprimere le tue opinioni. E questo è il motivo per cui c'è così tanta gente per strada. Fino a quando non infrangi la legge, non fai nulla contro la sicurezza nazionale e non manchi di rispetto alla religione e ai valori di questo paese, puoi tranquillamente parlare ed esprimere la tua opinione. Come giornalista ho il diritto di esprimere la mia opinione. Non mi preoccupa parlare con lei. La mia sola preoccupazione è non mentire, non dare un'impressione sbagliata rispetto a quello che sta succedendo qui. Fino a quando posso dire la verità, io sono felice. La testimonianza in esclusiva qui nel suo luogo lontano di Gambarna Deri, giornalista di Press TV da Teheran. Adesso però è il momento di voltare pagina. Parliamo di Libia. Come promesso, partiamo da una voce, quella di Giuseppe Conte. Il fatto che non si sia sottoscritto un accordo per il cessate il fuoco, che la componente di Haftar non l'abbia sottoscritta, non deve, diciamo, distrarci. L'importante è che ci sia una cessate il fuoco sostanziale e si possa indirizzare tutto questo processo verso una soluzione politica. Queste le dichiarazioni del nostro premier in uscita dopo il colloquio avuto con Al-Sisi al Cairo. Si è anche parlato di Regeni, ci sono un po' fumose dichiarazioni sul fatto che si arriverà alla verità. Continuiamo a ribadire che ancora francamente non si vede mezzo spiraglio. Haftar, dicevo, non ha firmato, vuole 48 ore per pensarci. Nel frattempo però la tregua non regge, perché le fonti che arrivano e le notizie che arrivano dalla linea del fronte sono piuttosto allarmanti. Innanzitutto fonti di Serraj, ma poi confermate da media arabi, riferiscono di mezzi militari emiratini arrivati a Taruna per una nuova possibile offensiva. Siamo a sud-est di Tripoli, quindi siamo abbastanza vicini alla linea del fronte. E poi a ridosso di Tripoli, secondo altre fonti, alla Daba le forze di Haftar stanno avanzando. L'idea qual è? Opinione personalissima, Haftar, si vuole sedere al tavolo di Berlino il 19 gennaio, domenica prossima, con una linea del fronte ancora più avanzata per mettere pressione ai membri di questa conferenza, che ovviamente si spera avrà l'ottimismo che il premier italiano ha dimostrato. Su alcuni account Twitter ho trovato notizia di rumori di jet sul cielo di Tripoli. Ripeto, la mia idea è che si voglia alzare la posta in vista del 19 gennaio. Adesso però vi propongo una storia, e questa storia parte da una foto. La squadra di Nessun Luogo Lontano la sta già postando su Facebook. Questa foto è ambientata nella chiesa, nel cortile della chiesa di San Francesco a Tripoli, e si vedono alcuni migranti, alcuni signori e signore africani, molti sembrano nigeriani se non vado errato. Vengono merci, è il mercato di domenica e siamo a Tripoli. L'autore di questa foto è Lorenzo Tugnoli, fotogiornalista, premio Pulitzer, scatta fra gli altri per il Washington Post. Lorenzo, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano e grazie per essere con noi. Buongiorno. Oggi Lorenzo ci parla da Beirut, ma è fresco, per così dire, di una lunga serie di missioni proprio a Beirut. Partiamo da questa foto, Lorenzo. Nei tuoi scatti racconti non soltanto la front line, e l'hai fatto anche molto bene, ma anche una quotidianità che però è violentata dalla guerra che dura ormai da aprile scorso. Partiamo da questa foto, un sagrato della chiesa, l'ultima chiesa cristiana rimasta a Tripoli. Sì, questa è l'unica chiesa che c'è a Tripoli. Questa, anche se hai detto che era la messa della domenica, in realtà la foto è stata scattata il venerdì, perché sì, siccome il venerdì è giorno di festa in Libia, come nei paesi musulmani, sì, la messa si fa di venerdì ed è quella che dove ci sono più persone che ne prendono parte. Sì. Secondo me è interessante, come dici, raccontare anche altre parti della vita di Tripoli. Io ho seguito, seguo da anni anche la situazione dei centri di detenzione per migranti, ovviamente, però in Libia ci sono fra 700.000 e 1 milione di migranti che vengono dalla zona subsahariana, e solo meno di un decimo di loro sono nei centri di detenzione, gli altri lavorano e diciamo hanno una vita in qualche modo normale, sì, per quanto il contesto ovviamente possa permettere. Da aprile scorso le cose sono molto cambiate e molti di questi migranti hanno ora una ragione in più per cercare di venire in Italia o in Europa, perché appunto la situazione è molto pericolosa. Certo. Mi è piaciuto tantissimo uno scatto, è apparso credo in una gallery del Washington Post, in cui si vede un centro di detenzione con dei migranti che giocano, se non erro, a dama. Ancora una volta hai colto un'apparente normalità, quando in realtà io davo notizia delle forze di Haftar ormai sempre più vicine a Tripoli e rinforzate dai rinforzi, scusate la ripetizione, emiratini. Quanto è difficile per un fotografo lavorare nel contesto libico? È molto difficile, molto difficile. Io infatti io sono stato due volte l'anno scorso, E l'ultimo viaggio, che è stato fra ottobre e novembre scorso, sono stato molto tempo, molto di più di quanto avrei pensato, perché appunto avere accesso a una serie di luoghi è molto difficile. Il fronte ovviamente è controllato dalle milizie, quindi bisogna avere sia il del permesso ufficiale, sia anche il permesso dei comandanti sul posto. I libici sono molto molto sospettosi del media, della fotografia, anche a ragione, ovviamente, perché molti dei ragazzi che stanno combattendo sulle linee di Tripoli hanno famiglie che stanno dall'altra parte del fronte, che stanno a Bengasi, eccetera, che quindi il fatto di mettere la loro faccia sul giornale può alle volte mettere in difficoltà, in pericolo la famiglia, perché di nuovo questo è un paese diviso, e quindi fino ad un certo punto era possibile passare da una parte all'altra della linea del fronte, e quindi ovviamente ci sono persone che hanno famiglia di qua e di là, e quindi certo. Questo rende molto molto difficile lavorare, e ovviamente anche la questione della burocrazia libica è molto difficile. Sì, e questo ci dà anche un'idea, come dire, aggiunge valore al lavoro che stai facendo, e ci dà un'idea anche come non sia facile avere notizie di prima mano, inviare inviati sul posto in Libia. Io ringrazio tantissimo Lorenzo Tugnoli, fotogiornalista, lo ricordo, è un premio Pulitzer. La foto che ci ha concesso di usare la trovate sui social di Facebook, e poi andatevi a vedere il Washington Post, troverete un po' di gallery, un po' di suoi lavori. Lorenzo, grazie mille, buona giornata e buon lavoro, buoni scatti. Grazie a voi. Grazie. Allora, lasciamo le strade libiche, andiamo sulla viabilità italiana, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano. Tra poco apriamo l'ultima pagina di Nessun Luogo. Vi porterò a Lesbo, isola greca di fronte alla costa turca. Cappello introduttivo, background, diciamo. Vi ricordate quei multimiliardari accordi che l'Unione Europea ha stretto con la Turchia per fermare il flusso di migranti, per gestire meglio i migranti? Più di 5 miliardi di euro spesi, e però gli sbarchi continuano. L'isola di Lesbo è al collasso, c'è soltanto un centro, condizioni incredibili. Tra pochissimo, dalla voce di Valentina Furlanetto, che è lì in questi minuti, in queste ore, vi racconterò meglio cosa sta accadendo. Un po' di messaggi al 349-238-6666, c'è chi torna indietro con la storia. Ricordiamo che la Libia è in questa tragica situazione grazie a Obama e Sarkozy. A me risulta che ci sia stato anche un intervento italiano a ruota di Sarkozy, per precisione storica. Sam, che torna sulla questione Haftar e ribadisce: è a un passo da Tripoli, chi glielo fa fare di firmare un accordo? Non firmerà mai. Io credo che potrebbe firmare, andare a domenica 19 gennaio, ma ripeto, secondo me vuole alzare la posta, mette pressione. Poi c'è una fonte che però non posso, come dire, né confermare né smentire. Un ascoltatore che ci ascolta apparentemente dalla Libia dice: confermo, sto lavorando in Libia, confermo quello che dicevi tu, ma sono spostamenti di truppe. Io di nuovo, e riferite sia a Serraj che a Haftar, io di nuovo so, ma tutta da verificare, di nuovi arrivi di mezzi da parte degli Emirati Arabi Uniti. E voi sapete, soprattutto l'aviazione emiratina, che sta dando superiorità numerica a Haftar, oltre alla presenza di Wagner. Però vedremo. Vabbè, poi c'è un ascoltatore o ascoltatrice che in qualche modo sembra stigmatizzarmi, perché dice: chiamate regime nazioni sovraniste non allineate con i nostri padroni, un po' di virgolette qua e là, quali gli americani, mentre non usate gli stessi appellativi parlando di Israele o gli Emirati Arabi Uniti. Me lo potete spiegare? Perché non mi sembra che Israele e gli Emirati siano tanti diversi per diritti umani e democratici all'Iran. Non sarà mica perché gli ultimi due sono amici degli americani? Allora, guardi, assolutamente no. il paragone Israele, Emirati Arabi e Iran, mi sembra che stiamo mettendo insieme cose molto molto diverse. Io, che sono molto critico verso il governo israeliano, e più di una volta l'ho fatto soprattutto sulla questione della gestione del West Bank o Cisgiordania se preferite, ma anche la stessa Gaza, francamente l'equiparazione Iran e Israele assolutamente non regge dal punto di vista dei diritti, della democrazia reale, assolutamente. Detto ciò, andiamo lì di fronte alla costa turca, andiamo a Lesbo, lo facciamo con Valentina Furlanetto. Valentina, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Sì, buonasera a te e agli ascoltatori. Sono in effetti proprio davanti alla costa turca, vedo proprio le luci della Turchia. Sì. Da qui mi sono allontanata da poco dal campo di Moria, che tu citavi poco fa, sì, che è uno il più grande probabilmente in questo momento in Europa, no? Sì. Perché contiene, stamattina le presenze erano 21.224 persone e un campo che, lo ricordiamo, ha 3.000 posti letto ufficiali, quindi si tratta di una giungla, sì, a tende si aggiungono tende, a container, una collina che quando piove ovviamente la pioggia scende lungo questa collina e la situazione delle tende e dei container è disastrosa. Certo. Mi sa che abbiamo perso il collegamento con Valentina Furlanetto, adesso cerchiamo di recuperarlo. C'è già qualche ascoltatore che commenta: qualche sbarco deve continuare, serve Erdogan per ricordarci quanto sia indispensabile. Devo dire che amo il cinismo di alcuni ascoltatori, ma questo per affinità intellettuale, e lo dico in senso buono, assolutamente. Valentina Furlanetto ci ricordava di questi numeri incredibili, oltre 22.000, ma tra poco cercheremo di capire, se ripristiniamo il collegamento, la nazionalità di provenienza, per capire anche se le proteste in Iraq e in Iran stessa abbiano dato, come dire, qualche esito sui flussi migratori. 349-238-6666 sempre per voi e per commentare, abbiamo gli ultimi minuti di trasmissione. Intanto vi do qualche numero, perché l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha registrato oltre 125.000 arrivi nel 2019 nei paesi europei affacciati sul Mediterraneo, in calo rispetto ai 141.000 del 2018 e al milione del 2015. Attenzione alla Grecia però, solo in Grecia nel 2019 si è registrato il 60% degli arrivi, il che vuol dire 75.000 persone. Durante la prima settimana del 2020 un ulteriore imponente flusso migratorio ha interessato tutte le varie isole, sto parlando di Lesbo, di Samos per esempio, che dista 800 metri. Dal 30 dicembre 2019 al 5 gennaio 1091 persone arrivate via mare. Valentina Furlanetto, non stiamo riuscendo a recuperare il collegamento, il senso, quello lo posso sintetizzare tranquillamente e commentare, quelle 22.000 persone a fronte di 3.500 di capienza ha fatto già nelle scorse settimane, ha forzato il governo di Atene a traslocare sostanzialmente alcuni migranti sulla terraferma, perché le isole sono davvero al collasso. È interessante notare, questo proprio dal punto di vista della dinamica migratoria, che quella vicinanza a cui faceva riferimento Valentina Furlanetto, ci ha detto vedo le luci della Turchia, consente anche il cosiddetto tragitto fai da te, non è necessario affidarsi a una catena imponente di trafficanti di uomini, ma a volte anche il fai da te con piccoli gommoni può essere una soluzione. Secondo gli ultimi dati, la maggior parte delle persone arriva da Kurdistan, Iraq, Afghanistan e Pakistan. Afghanistan è una costante da sempre, quella rotta lì, che pure, se ci pensate bene, guardate il mappamondo, è davvero davvero lunga. E poi la Grecia diventa la grande porta d'Europa. All'ascoltatore che dice questo pippone pro immigrazione è scandaloso, vorrei ricordare che pippone pro immigrazione, oltre a essere un lessico che leggo adesso ma non lo farò mai più, non è un pippone. Stiamo raccontando di un'emergenza migratoria di un paese membro dell'Unione Europea. Se lei questa cosa la considera un pippone, abbiamo un problema proprio di comprensione. Questo non è un pippone, stiamo raccontando quello che sta succedendo, non stiamo venerando una qualche forma di mala gestione dell'immigrazione. Stiamo sottolineando come, a dispetto dei 6 miliardi dati dall'Unione Europea alla Turchia, vi siano ancora degli sbarchi. Ho dedicato un'intera puntata di Nessun Luogo Lontano nel chiedervi e nel chiederci: è mai possibile che noi affidiamo alla Turchia di Erdogan la gestione della leva migratoria? È mai possibile che l'Italia e l'Europa si mettano in condizioni di vulnerabilità e di messa in scacco politica? Questo, secondo me, non è un pippone. Faccia lei, Niente, non ce l'abbiamo fatta con Valentina Furlanetto. Sì, ce l'abbiamo fatta, Valentina Furlanetto, eccoti. Abbiamo gli ultimi secondi. Abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un problema. Io continuavo a parlare, non so dove siete arrivati, ma insomma io ho lasciato da poco il campo di Moria, sì, dove sono stata tutta la giornata, perché ormai qui è sera. Dicevamo, sì, 21.200 posti, sì, questo l'avevamo colto, in questo momento. Dici, per 3.000 posti. Da, sì, principalmente i paesi di origine di questi migranti, di questo flusso. Allora, guarda, aggiornato stamattina, 72% afghani. Molti di questi afghani in realtà vengono dall'Iran, sono persone che erano scappate dall'Afghanistan negli anni che furono, decenni fa, vivevano in Iran, ma vengono perseguitati questi afghani di etnia Hazara in Iran, sì, e quindi fuggono dall'Iran. Tra l'altro ho conosciuto una ragazza di 16 anni, Fatima, che con la sua famiglia era riuscita a scappare dall'Afghanistan, ad arrivare in Norvegia, pensate, quando aveva 4 anni, poi dalla Norvegia, lei diceva, sono stata deportata di nuovo in Afghanistan, e dall'Afghanistan è ritornata in Turchia, hanno attraversato, sono arrivati qui a Lesbo. Grazie, grazie mille Valentina Furlanetto, siamo in ritardissimo, devo chiudere, però ti aspetto qua in studio, perché quella fotografia sull'isola di Lesbo ci interessa, e come ne parleremo velocissimi, titoli di coda. Grazie mille alla squadra in sul luogo, a voi che siete stati all'ascolto, l'appuntamento è per domani, ore 16.